ci assegno piano. Si sento male, lo sapremo nel ritorno. Sento bene questo giorno, divertirci assai dobbiamo. Lo vedremo nel ritorno. Lo vedremo, lo vedremo. Se la voglia è andata bene. Lo vedremo nel ritorno. Sento bene questo giorno, divertirci assai dobbiamo. Se la voglia è andata male, lo vedremo nel ritorno. Sento bene questo giorno, divertirci assai dobbiamo. Se divertirci assai dobbiamo. Se divertirci assai dobbiamo. Se divertirci assai dobbiamo. Assai dobbiamo. Assai dobbiamo. Thank you. paese felice eternamente. Confesso francamente che la cosa mi sembra un po' strana. Sempre con me, inumana, fu Beatrice. Come poi? Ma non si pensa al passato. Sotto un faggio può far colazione. E poi, pensando a lei, alla mia Beatrice, l'aspetterò. L'aspetterò dormendo. Thank you. arrivata? Dal mio tutore, che aveva ricevuto una lettera da mio fratello Max. Dunque non è morto? Ma come è morto? Se scrive! E beh, poteva morire dopo che scrisse. Per i soldati la cosa non è strana. È vero. Già sono 15 anni che manca. Mi ricordo che partendo per il campo, nell'abbracciarmi disse: addio sorella, ora il dover mi chiama militare, ma spero alle tue nozze un di ballare. Se sposiamo questa sera, come volete mai che possa ballare? Noi sposiamo questa sera? Oh, questa è grossa! Ecco la vostra lettera e la firma. Firma? Lettera? Ah, quando? Io non vi scrissi mai, neppure sognando. Come, come? Scommetto. Ah, ma Petrì, vorrei sapere. Andate, non vi fate da me mai più vedere. Ah, Petrì, Petrì, sono rovinato. Ma Petrì, Petrì, poc'anzi il matrimonio un po' divulgato. Peggio per voi. Ma Petrì, vorrei sapere. Ma andate e non vi fate da me mai più vedere. Ho la litre sgozzate e 6 capponi. Mi fece ammazzare un tenero vitello e 2 bomboni. Thank you. riposo! Badate che sul terreno nemico ora non siamo. E il primo che rubasse una gallina lo faccio fucilare domani mattina! Giovinotto, dimmi, dai risorsi ammontani. Io mi ci devo portare per riunirmi al reggimento. Non abbiate premura. Camminando 3 ore ci sarete. Giù la discesa sta alla casa mia. Domandate di me, di Daniele Birman. Birman? Sì, del canton d'Apsel. Buona mano, sono contento di fare la tua conoscenza. Ed anch'io sono contento di conoscervi. Dovete farmi un favore grande assai. Di pure. Fra soldati con voi voglio arruolarmi. Chi vuoi arruolare? Col sacco in spalla ed in braccio il fucile, fin da adesso sono al vostro comando. Ma perché tal pensiero? Io sono innamorata alla follia e l'ingrata da sé mi scaccia via. Questa ingrata chi è? È una ragazza che qui dimora, che Betri si chiama. Betri? Essa ha un fratello come voi militare chiamato Max Starner. Mia sorella! Questa è la sua capanna? Sì, signore. Or dunque, io scrissi a quest'uomo che volevo sposarlo ed egli mi rispose che ne era contentone. Poi ricevo un biglietto, vengo, ed ella nega ad averlo scritto e mi soggiunge con le solite brutte sue maniere. Non vi fate da me mai più vedere. Adesso vai. Dove? A prendere le carte. Le carte? Il tuo atto di nascita per poterti chiamare. Parla vorrei, sì, no signore, quanto alle debolezze, e là ormai eseguirete voi gli ordini miei. Parla, di su, che cosa far dobbiamo? A sacco questa casa, in men che il dico, mettete allegramente. A sacco, e tu lo dici, tu, sergente. Il guasto che farete, io rispondo per voi. Da me? Lo giuro. Vada. Presto. A noi. Si arriva a Lugona, ti spasserò con te, lo passa qui da già. Contento e tutto il reggimento ad alloggiar per là. Oh, cielo! Dirvi no! Non andate in collera se qui vi rivedete! Ma in collera non vado! Io aspettar devo qui un militare, col quale ho appuntamento. Appuntamento? E perché? Perché con sciabole e con montura in marzial figura un soldato sarò. Oh, cosa dite? Il mio partito è preso, la mia parola è data. Per 100 anni a camin restò quest'arma appesa, che il mio bisavo usò nella battaglia di Sempach. Dov'è il sergente? Parta con essi, ho questa carta da darvi. Una carta? Questa è, piangete, il testamento mio. Voi, quando sarò morto, la prevedete. Oh, Daniel, cosa dite? I sintomi vetri della mia morte già mi assalgono. Io casco di fatica e di sonno. Sono già 2 notti che non dormo. Potete riposare qui? No, no, vetri. Ma un solo istante, un solo... Io resterei, ma... Che... Vedete, qui restando compromettervi posso. È vero questo? Ma dunque qui? Ma direi... Addio! Fermate! Vicino a me potreste rimanere fin domattina. Io resterei, ma... E se avrò di voi bisogno, allora vi chiamo. Con piacervi, o mia Betri, soltanto io bravo. Risveglia! ma dormiva però vicino a te. Si marito non hai, l'affar va meglio assai. Signor soldato! Viva le femmine, viva il pompino, il lavoro! Soccorso! Aspetta un po'! Daniel! Daniel! Cos'è? Signore! Che mai pretendi? Chi è moglie? Chi è sorella? No! Chi è nipote, cugina e nonna? Zia! Ah! Corpo dunque di una batteria! Batti la ritirata e passa avanti! Lei sbaglia, io resto! Capisco adesso, devi essere il cascante! Io so! Chi? Tu chi sei? Egli è il mio amante! Amante? Va benissimo, rinunzierà all'amore! Ma già mai! Questo è un affare che si disbriga presto! Via di qua! La vedremo tra noi! Sì, vedi, ritiratevi! No, già mai! Or ti faccio vedere se partirai! Con la pelle infantile, tu mi cedi, buon ragazzo. Buono, buono, buono, buono, buono, buono, buon ragazzo. Mo ti parlo schiettamente, quattro colpi e giù ammazzo. Quattro colpi, quattro colpi, quattro colpi, quattro colpi e giù ammazzo. Tu mi cedi, buon ragazzo, buon ragazzo, buona bella, tu mi cedi, buon ragazzo, buono, buono, buon ragazzo, o ti parlo schiettamente, schiettamente, che t'ammazzo schiettamente, schiettamente, schiettamente, che t'ammazzo, ragazzo, buon ragazzo, schiettamente, che t'ammazzo. Bagna di lacrime, la mia ferita. Veramente? Questa amichetta qui, ve l'assicuro! Certamente! Con vostra buona pace, il disegno cosa volete dire? Con lui dovete battervi, lo so! Ammazzarlo! A voi cari! E preziosi! Preziosi a chi? E non sapete che egli è maritato? Maritato? Io maritato! Sei maritato? Allora come tale? E padre di famiglia, di 5 figli! 5 figli? Ah, sì, sì, sono ammogliato! E chi è sua moglie? Presto, chi è? Sono io! Voi? Cosa dite? Zitto, urla il sergente per salvarmi la vita! Voglio vedere il contratto di nozze. Il contratto da me solo è firmato. Sta là dentro. Corro a prenderlo. Guai se non il trovo in regola. Guai se regolare io non lo trovo. Signore, ecco il contratto. Vi è firmato Daniele. E più sotto del dito. Cosa? Non fa niente. È una burla. Manca di mio fratello Max la firma e non è valido. Tutto va bene. Max, il fratello, è ancora qui segnato. L'atto è in regola ed è legalizzato. Max! Max! Gran Dio! Tu forse... Proprio quello, Bettini, sono io. Riabbraccia tuo fratello. Ed io? Tu sei lo sposo. Ricorsi ad una burla per rendermi felici. Soldati, capolani, amici! Venite tutti, andiamo in circondare! E in Betlì, la mia sposa salutate! Evviva!